quali sfide? Cercheremo ovviamente come sempre di soddisfare e di andare incontro ai gusti e alle esigenze del nostro pubblico, con la grande comunità del festival che ogni anno attende la nostra manifestazione, che già si fa sentire durante l'anno inviandoci messaggi formali e informali attraverso gli incontri poi che abbiamo, anche molto spesso attraverso gruppi di lettura sia qua a Mantova in provincia ma anche poi oltre, e quindi speriamo anche quest'anno di essere riusciti a creare un'edizione che vada sempre incontro, diciamo così, allo spirito, cioè che riesca a creare un incontro felice tra scrittori e lettori, a presentare autori nuovi, poco conosciuti al grande pubblico, ma che secondo noi sono di grande valore letterario, e di soprattutto cercare di dare risposte, argomenti a quelli che sono i temi forti del nostro tempo, come le questioni ecologiche, le migrazioni, e quindi il trasferimento di popoli, di persone, le questioni legate alle frontiere, la rivoluzione tecnologica in atto, insomma, quindi le grandi trasformazioni culturali che adesso sono arrivate. Insomma, questi sono alcuni dei temi che ricorrono in molti degli eventi del festival e che abbiamo cercato quindi di declinare in modo diverso. Abbiamo oltre 400 ospiti circa al festival, di cui circa un centinaio sono ospiti stranieri. Abbiamo cercato come sempre di dare spazio e voce alla letteratura internazionale, alle diverse letterature, perché ovviamente noi ci teniamo moltissimo non solo ovviamente a dare spazio alle grandi letterature, quelle più rappresentate normalmente nel mercato editoriale, quindi ci sarà ovviamente molto spazio anche alla letteratura anglo-americana. Avremo quest'anno per esempio autori come Chris Offutt e Tom Drury, che sono due scrittori americani che ci parlano dell'America profonda, dell'America della provincia, quella delle strutture familiari più arcaiche in un certo qual modo, no? quella del grande legame con il territorio, con i profondi spazi degli Stati Uniti, ma avremo anche storie ovviamente che si riferiscono invece a tantissime letterature europee e non europee con diverse espressioni letterarie. Grande attenzione alla letteratura europea, e ovviamente alla letteratura avremo ospiti per esempio Giorgi Dragoman e Geza Soc, che sono due scrittori ungheresi. Dragoman è un narratore che poi fa parte della minoranza ungherese di Romania. Avremo uno spazio particolare dedicato a Praga, che sarà quest'anno la nostra città in libri, e quindi avremo anche due autori cechi, che sono appunto Patrik Urednik e Katerina Tučkova, ma avremo poi Diana Bosnia, che è una scrittrice bosniaca che vive a Trieste da molti anni, che poi è uscita con questo libro sulla storia di Sarajevo, molto rivissuto attraverso i diari del nonno. Avremo anche molta letteratura dell'altra Europa, avremo Eduardo Mendoza, che per noi è uno degli ospiti più interessanti, uno scrittore spagnolo che è di riferimento, un po' trascurato dalla nostra editoria, ma che poi è anche testimone della questione catalana ancora così attuale. Avremo poi Robert Menasse, che è uno degli autori di lingua tedesca più interessanti, che poi ha scritto questo libro che è appena uscito in Italia, si intitola La Capitale, che riflette sulla Bruxelles così amata, così odiata, no? Che viene adesso individuata come il centro della burocrazia europea, no? Così distante, no? dalle aspirazioni, dai desideri delle persone di tutta Europa. E mi ha scritto questo libro, che è un romanzo, proprio partendo però dalle interviste, dei contatti con molti dei funzionari e delle persone che lavorano per le istituzioni europee, ma anche poi letteratura del resto del mondo. Avremo Richard Flanagan dall'Australia, che è anche questo un ritorno molto atteso. Avremo Tran Nguy, questa scrittrice vietnamita, e quindi anche continuare a parlare e riflettere sulle migrazioni. Lei parlerà di una delle prime migrazioni a causa della guerra, quella appunto dei Boat People, che vennero in Occidente dopo la guerra del Vietnam. Ancora Igoni Barrett, che è un grandissimo scrittore nigeriano molto giovane, che poi riflette appunto questioni e trasformazioni dell'Africa contemporanea, di Lagos, delle grandi città nigeriani che sono cosmopolite, con grandi dove vivono grandissimi numeri di persone, quindi con tensioni e presenze anche fermenti culturali e sociali molto, molto forti. Insomma, come sempre abbiamo cercato di creare un ricco piatto di offerte che renda un po' anche l'idea di come della diversità, della pluralità di voci che la letteratura a livello internazionale sta esprimendo. Autori italiani interessanti, ce ne sono tanti che tornano, ovviamente penso a Michela Murgia, penso a Simone Daniele Orbi, Gianrico Carofiglio, Giancarlo De Cataldo, che tra l'altro appunto terrà un incontro con Christopher Bollen, un altro autore di gialli, quindi un incontro anche questo non transnazionale. Avremo però poi anche voci nuove come Matteo Trevisani, autori che poi appartengono a sono espressioni cosiddetti nuovi italiani, nel senso avremo Antonio Di Stefano Di Chiele, che è uno degli autori, diciamo così, più amati dalle giovanissime generazioni. Un altro autore molto interessante è Elvis Malai, di origine albanese, che è stato nella selezione dello Strega Giovani, che ha pubblicato appunto un romanzo in italiano, perché lui vive in Italia ormai da moltissimi anni, ed è una delle nuove proposte che noi vogliamo sottoporre al nostro pubblico, e proprio anche mostrando come la letteratura italiana stia vivendo anche una trasformazione interessante proprio anche grazie a queste nuove presenze. Ridon è uno dei progetti più importanti per noi, è una grossa scommessa per Festival Letteratura, perché è un progetto che ci vede impegnati con 6 partner europei, che non sono solo festival letterari. Noi già in passato abbiamo avuto l'occasione, la fortuna di poter partecipare, dar vita a progetti europei, ma quest'anno la sfida è diversa, perché non saranno solo festival letterari la realtà con cui collaboreremo, ma molto diverse anche scuole, centri di promozione della lettura e altre realtà, perché il focus quest'anno sarà dedicato agli adolescenti, alla lettura. Avremo tanti incontri durante il festival, tanti incontri anche però nel periodo dell'anno. Per esempio, durante l'anno abbiamo dato vita a questa azione molto importante, che riprenderà poi con il nuovo anno scolastico, e che non teniamo solo a Mantova ma in tutta Italia, perché hanno partecipato per esempio scuole di Bologna, di Ferrara, della provincia di Modena, insomma di diverse città italiane. Quest'anno vorremmo anche allargarci ulteriormente. Ridmore è un progetto di lettura libera lasciato ai ragazzi, nel senso che ogni giorno vengono lasciati nell'orario scolastico 20 minuti in cui i ragazzi possono leggere liberamente quello che vogliono, e abbiamo avuto tantissime adesioni e quest'anno contiamo di averne ancora di più. Durante il festival invece abbiamo una serie di appuntamenti, uno molto bello e molto importante che si chiama Anthology, dove abbiamo invitato i ragazzi di tutta Italia tra i 14 e i 19 anni a partecipare alla costruzione di un'antologia dedicata ai ragazzi. Quindi per la prima volta un'antologia che non è dedicata ai ragazzi ma fatta dagli adulti, scegliendo i racconti che devono leggere i ragazzi, ma conterà questa volta i racconti che i ragazzi vogliono leggere. E la selezione si parlerà qui durante il festival, grazie al contributo di Aidan Chambers, Marco Rossari, Gabriele Di Sonzo, che aiuteranno questa giuria di ragazzi a scegliere la selezione finale. Ci siamo resi conto che i ragazzi non solo leggono tanto, ma leggono anche autori assolutamente importanti della letteratura internazionale, perché tra gli autori scelti ci sono Borges, ci sono Caccia Calvino, ci sono tantissimi autori anche classici, che quindi ci aiutano a capire appunto come i gusti letterari dei ragazzi siano ben differenti da quelli che normalmente crediamo che siano. Insomma, abbiamo una rappresentazione abbastanza stereotipata di ragazzi che non vogliono leggere. Ci sono ragazzi che leggono tantissimo, che sono molto appassionati e che possono essere i primi ambasciatori della letteratura e della lettura tra i loro coetanei. Sì, anche quest'anno, come sempre, come sai, la nostra curiosità va in diverse direzioni. Segnalo appunto due direttrici. Una con l'arte, è molto interessante quest'anno il progetto dei processi che terremo a Palazzo Te, dove appunto verranno ripercorsi i processi che hanno subito famosi artisti, da Jacopo Sansovino a Paolo Veronese e ad altri, in relazione proprio alla loro attività di artisti, e questo ci permette, la costruzione è stata fatta in questi processi anche grazie alla collaborazione con numerosi archivi italiani, ci permette proprio di parlare proprio dello statuto dell'arte dell'artista, quindi dell'artista e la sua libertà, della sua responsabilità civile, del rapporto con il potere. Ma tutti questi processi in realtà toccano questi temi che sono assolutamente attuali e che sono appunto delle costanti da riflessioni sull'arte, sul senso del fare l'arte e su qual è il ruolo dell'artista all'interno della società. Invece, appunto, per quanto riguarda il teatro, continua la nostra attenzione verso il linguaggio e la scrittura drammaturgica. Avremo anche quest'anno due incontri dedicati ad alcune compagnie importanti italiane, una appunto è l'incontro con Daria De Florian, l'altro è con i Timpano, una delle compagnie anche di teatro civile molto interessanti, e quindi saranno i nostri ospiti, ci racconteranno il loro fare, il loro scrivere teatro, ma poi anche presenze teatrali che vanno ovviamente a interrogare e intersecare la letteratura. Segnalo lo spettacolo di Sotterraneo, che è Overload, che è dedicato a David Foster Wallace, e per noi è anche un modo di ricordare l'autore americano 10 anni dalla scomparsa. È un lavoro teatrale che è molto, si interroga anche sui meccanismi della scrittura e della nostra attenzione, della capacità della comunicazione, della nostra capacità di rielaborazione dei numerosi messaggi che ci arrivano nel nostro tempo. Quindi è uno spettacolo senz'altro di grandissima attualità da un punto di vista dei temi, e poi molto interessante lo spettacolo anche che terrà il Teatro delle Albe e Val, Roberto Magnani, che prevederà poi anche un dialogo finale tra l'attore Magnani e Nevio Spadoni, che è il poeta che è autore dei testi della drammaturgia. Un dialogo diretto tra letteratura e teatro, che è un po' il centro di questo percorso che da qualche anno stiamo cercando di costruire, proprio per riavvicinare, riportare il teatro all'interno della testa della letteratura. Ma guarda, il festival senza dubbio, nel senso che dalla prima edizione, quando c'erano poco più di 120, adesso ce ne sono oltre 300 appuntamenti, riuscivamo a fare il festival richiedendo l'aiuto di 200 volontari, adesso ce ne servono quasi 700, quindi questo dà un po' l'idea anche delle dimensioni di un festival che si è fatto più grande, che però tiene sempre ad avere una dimensione ragionevole, no? Quindi non espandersi all'infinito per non implodere su se stesso. Io credo che c'è da parte del festival un'assoluta fedeltà alla sua idea forte, che credo sia quella proprio di offrire un terreno di confronto tra gli autori e il pubblico, di mantenere un incontro che sia vero, insomma, che sia vicino, che porti le persone a confrontarsi su quelli che sono questioni che ci toccano da vicino. Poi credo che questo gli autori lo intendano bene, e soprattutto vivono anche Mantova come un terreno di sperimentazione importante, nel senso che è chiaro, gli autori vengono a parlare dei loro libri, dei temi che stanno al loro cuore, ma molto spesso cerchiamo di offrire loro anche occasioni per cui possono parlare, incontrarsi, portare avanti progetti che non sono strettamente magari legati all'ultimo libro che è uscito, e questo è una grande libertà anche per loro da un certo punto di vista. Creeremo questo percorso che abbiamo chiamato Girotondo in uno spazio storico della città, proprio per ricollegarmi anche a quello che tu dicevi prima di riscoperta e di reinvenzione degli spazi cittadini, alla casa di Andrea Mantegna, che è appunto ha questa costruzione architettonica molto particolare, no? Questo cortile rotondo iscritto in un quadrato. Ebbene, proprio al primo piano di questa casa abbiamo creato questo percorso libero per ragazzi e adulti, in cui, a differenza dei classici laboratori in cui c'è sempre un artista, un illustratore, uno scrittore che è presente, quindi guida l'attività, qui invece abbiamo chiesto a appunto artisti, scrittori, illustratori di pensare a un'attività che le persone potessero fare in assoluta autonomia, e quindi le persone andranno dentro e con un libretto di istruzioni proporranno e cercheranno di svolgere questi giochi, queste attività, che potranno anche riprodurre a casa propria. Dare qualcosa che le persone si possano un po' portare a casa, come cerchiamo sempre di fare con le feste. Insomma, idee, voci e riflessioni vorremmo appunto che poi fossero sempre generative e fossero sempre poi qualcosa che le persone possano, le persone possano ritornare per tutto il periodo invernale, no? Dicevi un po' un appuntamento di inizio anno, solo dare un po' di provviste per l'inverno. Ecco, questo è un po' il senso dell'operazione che cerchiamo di fare.